Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:21 minuti, caro ecco Oscar. Qua. Reduce da notti complicate, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. E il santo di oggi è un santo fondativo del culto e della nazione francese, perché stiamo parlando di un santo che appartiene alla prima generazione dei gallo-romani, San Medardo. Infatti San Medardo è nel Pantheon ristretto, per così dire, dei santi della chiesa francese. Stiamo parlando di un santo a cavallo tra il V e il VI secolo, nato a Viromadensium, che poi diventa San Quentin, il vescovo di San Quentin, ma comunque un punto fondamentale per i primi snodi con l'imperatore Clotario, con il re dei Franchi Clotario e così via. Quindi si fonda l'intreccio poi tra la scelta dei Franchi, che resteranno cristiani, mentre poi sull'altra sponda del Reno ci saranno problemi per secoli di evangelizzazione risolta. E in questo giorno, nel 452, Attila invadeva l'Italia, poi si fermava. Io ho sempre pensato che sia stato un disastro che il Papa lo abbia fermato, perché forse era meglio i barbari. Forse, ma i barbari ci sono stati di altro tipo. E che Attila era più energico, aveva una visione. Noi ci siamo beccati i più rapinatori degli altri barbari che misero a sacco Roma. Attila forse era meglio beccarselo piuttosto che evitarlo, ma comunque invece si fermò. Oggi è un giorno delicato, e devo dirlo con tutta la delicatezza, Alessandro, perché il compleanno di Deborah Rosciani. No, sì, questo certo, naturalmente certo, sì, oggi naturalmente sì, oggi è vero. Però ho scoperto che è il giorno anniversario della morte del profeta dell'Islam. Non voglio dire nessun nome per evitare che quando uno lo dica finisca per crearsi problemi. Ma no. Però insomma sì, Deborah Rosciani è nata in questo stesso giorno, e ecco perché la sua potenza dai microfoni di Radio 24 si irradia. Lasciava 9 vedove e una figlia, Fatma. Chi? Deborah Rosciani. Ah, no, e lo sapevo come l'avresti chiesto. Non ridiamo troppo su questi temi, no, perché Deborah, c'è chi Deborah. No, anche Deborah reagisce male. Ti garantisco che ci sono testimoni di vittime maschili di Deborah Rosciani, ma su questo noi stendiamo velo della riservatezza. Peggio di un conto cifrato in Svizzera. E comunque le vittime che sanguinanti sono tantissime negli anni. Dopodiché io voglio ricordare anche che in mezzo a questi grandissimi anniversari ce n'è uno che mi è particolarmente caro, perché nel 1987, per l'idea del professor Caffo, nasceva il telefono azzurro. Il telefono azzurro, a suo modo, secondo me, è una cosa che ha cambiato. Ecco, io lo ricordo tra le cose, tra virgolette, storiche. Sicuro che per quando i miei figlietti saranno cresciuti ci saranno forme telematiche di immediato arresto dei genitori. Oramai immediato, credo che compare. Preventivo forse. Sì, forse hai ragione. Nel mio caso poi ergastolo preventivo. Dai. Comunque, auguri a Sergio Staino e a uno degli attori italiani. Io amo moltissimo il teatro, il cinema, eccetera. Ce ne sono alcuni poi che ho in un mio panto personale. Uno di questi è Gastone Moschin. Gastone Moschin è uno spettacolare attore teatrale. Film di tutti i tipi, dai B-movie polizieschi alle grandi commedie dei grandi registi italiani degli anni 60, alla trilogia di Amici miei, che naturalmente lo consacra, ma insomma un grande vero che in teatro, per chi l'ha visto in teatro nella vita, sa che era di quelle che ti riempiono davvero con una grandissima impressione. Allora, oggi da che cosa vogliamo cominciare? Caro Oscar, la legge elettorale, sai, è tutta chissà, forse non si sa, il Movimento 5 Stelle che poi posso dire una cosa. Berlusconi anche oggi, nella sua lettera al Corriere, dopo ieri l'intervista che aveva rilanciato ieri al Quotidiano Nazionale, in cui lanciava Draghi Premier. Anche oggi un articolo da pensoso statista europeo. La svolta merkeliana lo rende veramente, non è lo stesso, è lui. Non è lo stesso. 2011, un'altra persona. Un'altra persona. È lì che attende. No, poi, caro Oscar, forse dovremmo parlare di quella che è, allargando un po' gli orizzonti, cercando di dare degli spunti di lettura magari un po' più profonde oggi, cercare di dare delle interpretazioni di quello che sta succedendo nel mondo. Soprattutto nel mondo arabo, nel mondo musulmano. L'attentato che c'è stato ieri a Teheran, per la prima volta l'ISIS Parlamento colpisce, mausoleo. Colpisce nel paese sciita. All'indomani del grande cordone sanitario steso dall'Arabia Saudita e dalla monarchia del Golfo verso il Qatar, con la Turchia che sceglie il Qatar, e quindi un equilibrio regionale molto molto complicato. Eh sì, infatti oggi per esempio ho letto sul Foglio in rassegna stampa questa analisi di Raineri a dire che in realtà non è l'Arabia Saudita il mandante di questo attentato. Certo, però cosa si vede nel mondo? Trump di recente è andato in Arabia Saudita, l'Arabia Saudita insieme ad altri paesi sunniti dopo qualche giorno hanno escluso il Qatar, accusato di essere troppo figlio iraniano. Maurizio Molinari ci ha ricordato quanto lontano nel tempo siano radicate lo scontro tra gli Al Saud e la famiglia e le tribù dell'emiro del Qatar, pluridecennali il contrasto. E quindi siamo in una situazione però potenzialmente esplosiva. Certo, vedere che per la prima volta l'ISIS colpisce anche in un paese, il paese a maggioranza sciita per eccellenza, l'Iran, è un qualcosa che ha colpito molto. Allora, tutte queste riflessioni noi le vogliamo girare, le vogliamo fare con un teologo gesuita, è un teologo che è nato in Egitto, ma ha vissuto e vive tra Libano, Francia, Italia, Germania, insomma vive nel mondo, è padre Samir Khalil Samir, che salutiamo. Padre Samir, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi tutti, grazie mille. Allora, padre Samir, la domanda che noi ci poniamo, che è la domanda che si pone proprio l'uomo medio, se vuole, è quanto anche in tutto questo la religione c'entri, la religione musulmana, quanto si possa parlare di Islam buono, Islam radicale, quanto dobbiamo considerare questa una, anche per qualcuno addirittura una guerra di religione. Lei che risponde, padre Samir? No, non penso che sia una guerra di religione, ma dobbiamo chiarire le cose. Il Corano, scritto che sarebbe dell'inizio del VII secolo, il Corano comprende due parti divise dai musulmani stessi. Il primo periodo, dal 610 al 622, quando era nella sua città natale alla Mecca, e poi i 10 anni seguenti fino alla sua morte nel 632. Allora, il primo periodo è più tollerante, lui cerca di convincere la gente dell'esistenza di un unico Dio, mentre quando non ha molto successo, fugge, si chiama la Hijra, fugge a Medina, ciò che si chiamerà Medina, e lì cambia atteggiamento. Dopo 2 anni della sua presenza, comincia a fare degli attacchi contro tribù per convincerli di adottare la sua visione del Dio unico. Sì. Ora, nel Corano, nel primo periodo, come dicevo, è piuttosto tollerante. Nel secondo abbiamo dei versetti, numerosi, decine di versetti, violenti, secondo l'uso dell'epoca. Cioè che per convincere l'altro, per guadagnarlo alla mia visione, eccetera, si fanno degli attacchi a cammello, eccetera, e delle guerre. E lì abbiamo veramente parecchi versetti dove si dice chiaramente che chi è miscredente, kafir, quello non ha possibilità di vivere con noi, deve essere ucciso o diventare musulmano. Quindi dipende, mentre dipende, per i cristiani, sì, e gli ebrei che sono credenti, che però imperfetti perché non credono nel carattere profetico di Maometto, possono vivere con noi musulmani purché paghino una lagisia, cioè un tributo, contributo, e che siano essendo umiliati, dice il Corano. Ah. Abbiamo anche dei versetti più duri piuttosto verso gli ebrei, perché, e poi sappiamo che nel secondo anno dell'Egira, dunque nel 624, c'è stato il massacro di una delle tre tribù ebraiche arabe che si trovavano lì a Medina, e lui dirigeva questo massacro, dove hanno ucciso tra 600 e 800 uomini. Quindi, e preso le donne e i bambini in schiavitù. Quindi, padre Samir, dipende da che, si può dire, da che parte di Corano a cui ci si ispira, ecco. Sì, è da che oggi hanno classificato i capitoli del Corano secondo la lunghezza, come le epistole di San Paolo, cioè la più lunga all'inizio e la più breve alla fine dei 114 capitoli, sì, sì. Però indicano sempre in testa, c'è una frase che dice questo è del periodo della Mecca o di Medina, certo. Questa e fanno come una... danno la possibilità di ricostituire una storia del Corano dicendo questo capitolo è stato rivelato dopo tale quale. Sì. Ci si chiede, padre Samir, se sia una guerra soprattutto intrareligiosa, cioè quello che abbiamo visto ieri a Teheran, una guerra soprattutto tra sunniti e sciiti, una guerra tra diverse interpretazioni dell'Islam? Non c'è dubbio che adesso tutta questa storia da sei anni di ISIS, sì, è, come lei ha detto, una guerra dei sunniti contro i sciiti. La prova, come si chiama questo? In arabo Daesh, che tradotto correttamente in inglese con ISIS, cioè Islamic State for Iraq and Syria. Adesso Islamic State è per dire vogliamo ristabilire il califfato che è stato cancellato nel 1924 da Kemal Atatürk, ma si dice anche da noi che sotto la pressione britannica che voleva ricostituire la regione, eccetera. Ma dunque ristabilire il califfato che è stato la forma islamica del regno. Solo che colpiscono. Questo per Islamic State. Chiaro. Poi viene Iraq e Siria. Perché proprio questi due? Perché non l'Egitto, la Giordania, eccetera? Ma perché in Iraq chi domina attualmente, chi governa, sono i sciiti, e in Siria chi governa sono gli alawiti, che sono un ramo dei sciiti. Dunque è veramente chiaro che è un progetto sunnita contro gli sciiti. Però colpiscono anche noi, colpiscono Londra, colpiscono Parigi, colpiscono i civili e fanno attentati. Sì, allora di là è nato un movimento che non si è mai visto nella storia nostra, di una è disumano, perché educano la gente basato su alcuni versetti del Corano e alcuni passi, non solo il Corano. Nella tradizione islamica abbiamo due fonti riconosciuti, sì, come accettabile: il Corano ovviamente, più la vita di Maometto e i suoi detti. Si chiama la Sunna, il Khabar e il Hadith. Ora, si trova in questi detti di Maometto, che sono migliaia raccolte soprattutto da due grandi raccolte chiamate le autentiche, di Bukhari e di Sahih, Bukhari e Sahih Muslim, i due autori. Questi sono migliaia di detti. Andando a pescare una parola, una frase che sarebbe stata pronunciata da Maometto si può applicarla. Ora, in questi detti e in questi fatti, ovviamente, secondo le circostanze, in un caso Maometto ha potuto dire sì, uccidetele, in un altro caso no. A secondo si può prendere quello che si vuole, certo. E quello, questo è la tragedia nostra. Sì. Dico nostra per noi tutti, io come arabo dico, e la maggioranza dei musulmani saranno d'accordo con me che questo stiamo vivendo una cosa inaccettabile. Però purtroppo, siccome non si è fatto una riflessione per situare ogni cosa nel suo contesto, allora ognuno sceglie quello che vuole. E da alcuni decenni, sotto la spinta della corrente wahhabita, che è quella dell'Arabia Saudita, ma anche di Qatar, sì, che sostenuta da tutti quelli che ricevono aiuto da questi paesi, aiuto materiale, finanziario, allora si sta diffondendo una visione radicale dell'Islam che non era mai quella che personalmente io ho conosciuto vivendo al Cairo fino agli anni inizio dell'anno 70, anni 70. Insomma. Fin qua c'era grande tolleranza relativa, ovviamente, non uguaglianza, ma tolleranza di chi non era musulmano. Insomma, un mondo che è peggiorato. Il mondo è cambiato negli anni 70, sotto l'influsso degli imam formati o sostenuti dal pensiero salafita o wahhabita, che è il più radicale, o anche dai fratelli musulmani. Ecco, no, perché in questo aspetto mi aspettavo, padre, che lo citasse, perché per essere chiari e per situare i nostri ascoltatori, al di là dell'interesse fondamentale, perché persone come lei sono straordinarie, perché istituiscono, vanno alla radice, no? Dei testi, allora, dell'interpretazione. Aspetti un secondo. Il punto è che ai nostri ascoltatori dobbiamo restituire che non si tratta solo e tanto adesso di una reazione, per così dire, tutta di islamismo sunnita agli sciiti. Dietro c'è una storia complessa. Dalla Fratellanza Islamica, la cui radice è nel no alla cultura occidentale negli anni 20 e 30 del Novecento, A. B. Che è antesignana, viene prima nell'islamizzazione sunnita, poi delle madrasse che invece Arabia Saudita e Qatar dagli anni 70 iniziano ad alimentare. Le iniziano ad alimentare perché? Perché con Khomeini in Iran lo sciismo a propria volta diventa radicale, mentre prima non lo era nei confronti della geopolitica, e il mondo sunnita reagisce in quel modo. C'è l'errore o la scelta americana in Afghanistan di sostenere i talebani contro i sovietici, e di lì in poi la geopolitica, le guerre in Iraq e così via, il fatto che i paesi sunniti dicano beh, però l'Iran straborda nella definizione separazione e nel conflitto interno dell'Iraq, questo serve a capire che cosa vogliono fare a casa di ciascuno di noi, fino allo Yemen, tragedia. Quindi la geopolitica mischiata. Però ecco, per dire, gli estremismo sunnita e sciita hanno una storia secolare, ma nella modernità la Fratellanza Islamica, che è quella che il Qatar sostiene, la Turchia sostiene, al-Sisi non può sostenerla, è presidente in Egitto perché li hanno mandati via coi carri armati. Ecco, è una storia anche di politica, non solo di interpretazione del Corano. Tutto qua. Certo, ma la base, c'è il doppio problema. Sì. Quello politico, però vorrei distinguere che di per sé il sciismo, a parte l'episodio con Khomeini, il sciismo è sempre più tollerante, ha una visione più aperta dell'Islam. Nella storia è così, nella storia dell'Islam è così, con Khomeini e la Repubblica Iraniana che diventa attore politico, è cambiato tutto. Ha creato però il sunnismo, diciamo, il movimento wahhabita è anteriore di due secoli, certo, a Khomeini. Dunque c'è l'Arabia Saudita si presenta come l'Islam autentico, estendo sul lato dove la storia, diciamo, e la geografia, la nascita dell'Islam è in questo paese. Però a partire dalla fine del 1700, con Abdel Wahhab, il fondatore del wahhabismo, e il patto che ha fatto con una delle tribù, i Bani Saud, della città di Najd, allora diviene una visione molto oscurantista, che consiste a dire: dobbiamo riprodurre il più letteralmente possibile tutti i fatti, i detti, eccetera, di Maometto, che erano del VII secolo. Questo ritorno 14 secoli indietro è incredibile e sta facendo una tragedia, soprattutto quando, come lei l'ha detto bene, si mischia la politica, la geopolitica. E chi sostiene questo? Anche l'Occidente, diciamo. Perché nel Medio Oriente chi produce armi? Un solo paese, Israele. Chi ha la bomba atomica? Un solo paese, Israele. Nessun paese arabo. Ecco, io su questo naturalmente la penso radicalmente diversamente da lei, perché le armi ai paesi arabi non le dà Israele, le hanno date da sempre altre potenze nel mondo, quindi non è detto che Israele, dice che chi produce armi è solo Israele. No. Sto dicendo fatti. Dico chi produce, ho detto, sì, non armi. Ho detto chi dà. No, le producono chi anche dà, loro, gli egiziani hanno finire. Da sì, però guardi, non possiamo essere d'accordo. Non produce Israele, non è Israele l'unico a produrre armi in Medio Oriente. Punto. Com'è? Non è Israele l'unico paese a produrre armi in Medio Oriente, punto. Non procura che produce la bomba atomica, per esempio, è l'unico. L'Iran cerca di farlo, ma gli dico no, tu non hai il diritto di farlo. E voglio dire, dovete capire la psicologia che si vive lì, non solo psicologia, infatti chi aiuta con le armi? Gli Stati Uniti essenzialmente e secondariamente anche alcuni paesi europei, compresi un po' l'Italia, la Germania, la Francia, l'Inghilterra. Bene, questi dove vanno? A chi può pagare? Chi paga? Essenzialmente abbiamo l'Arabia Saudita e in parte il Qatar. Che cosa fanno di questo? Usano l'Arabia Saudita, lo usa contro i sciiti essenzialmente, che sia adesso nello Yemen, dove una grande parte è sciita, che sia attraverso ISIS contro gli alawiti, che sono dei sciiti, o contro l'Iraq. Chi ne soffre? Tutti quanti, sì. Ma in questo modo i cristiani. Padre, non dimentichi Hamas ed Hezbollah e centinaia di vittime innocenti israeliane. Quelli sono finanziati dall'Iran. Le armi vengono dalla Corea del Nord, dalla Cina. No, non sono armi americane. Quindi lo so, io non voglio mettermi a questionare, però non dimentichiamoci chi da anni e anni prende gli autobus, tenta con gli autobus o con le macchine di investire gli innocenti. La storia è lunga, non c'è la ragione da una parte e dall'altra, però lei quando arriva a questa lettura è un po' unilaterale, perché non è una, io prendo le mie parole tale quale, per favore. D'accordo, non estrapolare. No, ma non estrapolare, io ho detto, lasciami dire, farà la sua intervista dopo. Allora dico, non sto dicendo che Israele è in questo conflitto, io sto solo dicendo che chi usa il conflitto, come abbiamo detto, è tra sunniti e sciiti. Non parlo di altro, ho solo fatto l'allusione che l'unico paese che produce, mentre c'è un altro che cerca di produrre e si dicono non hai il diritto, ma non l'hanno detto al primo. È quello che voleva dire. Ma torniamo al nostro argomento, il conflitto è interno. Purtroppo, attraverso le armi che vengono dall'Occidente, questo permette a ISIS di funzionare, sì. E aiutato anche in parte dalla Turchia, che fa un doppio gioco, e di vari paesi sul posto. Padre Samir, il fucile d'assalto di tutti è la K-47, non lo produce l'Occidente, però comunque su questo basta, perché sennò ci perdiamo. Padre Samir, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo già sforato di 5 minuti, però ci ha dato degli spunti di riflessione, io credo, anche di diverso tipo rispetto alle analisi fondamentale sul libro, con l'interpretazione e il nocciolo. E quindi la ringraziamo per essere stati con noi, ma dobbiamo, Padre Samir, dobbiamo andare in pubblicità e poi rientriamo tra un attimo. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, le 8:50 minuti. Vabbè, caro Oscar, però oggi abbiamo sentito una voce dotta, ecco, questo sì, dotta, che ci ha guidato nei meandri delle interpretazioni dalle diverse parti dell'Islam, dei testi fondamentali, no? Certo. Spiega perché per secoli si legnino e poi perché la geopolitica abbia approfittato di loro armandole l'un contro l'altro. E però io dico solo questo: chi crede che lo scontro tra sunniti e sciiti renda più sicura l'Europa e l'Occidente, secondo me si sbaglia. No. Infatti io sono molto inquietato da quello che è successo a Teheran, al di là del mandanti, non mandanti, perché se, come dire, dovesse esserci una polveriera sunnita e sciita, sì, ma così evidente, che coinvolge anche non li farà deflettere dal loro mandato in Europa e in Occidente. Questo è quello che voglio dire. Comunque oggi se vediamo anche come votano i britannici, perché non si capisce se davvero Corbyn l'ha ripreso i 22-23 punti di svantaggio. Certo, ne ha riacchiappati molti, ma non si sa alla fine come finisce. Dicono che ne ha ancora 12 o 13 però sondaggi. Quelli fino a poche ore fa dicevano fino a 3 punti, un punto, poi un altro dice 12 punti. Si capisce solo che anche lì bisogna vedere quanti vanno a votare, quanti giorni vanno a votare, eccetera. Dopodiché lasciami dire, lo so, sono fuori linea rispetto a Radio 24 e Sebastiano Barisoni, che però ieri la Spagna ci ha dato una lezione, perché in 24 ore risolve il problema di Banco Popolare con il burden sharing, con la conversione dei titoli, come l'Italia non vuole fare, Banca d'Italia non vuole fare, i regolatori italiani non vogliono fare, loro la fanno in un giorno, ecco, e senza il rimborso di Stato, che l'Italia invece mette sempre in ballo. Perché? Perché in Italia i regolatori non vogliono ammettere che hanno fatto vendere titoli tossici ai risparmiatori per far pagare meno le banche, e quindi per questo vi dicono che la direttiva europea è sbagliata. No, in Spagna si attua. Vi dicono che bisogna ristorare tutti con i soldi di Stato. No, in Spagna non avviene. E il risultato è che noi rimaniamo con le viscere bancarie aperte, mentre loro, gli spagnoli, le risolvono in 24 ore. Vedete un po' a chi volete credere. Io non credo alla commissione di interessi imprenditoriale bancario dei regolatori, per questo parlo chiaro, lo so, sono fuori linea. E comunque, insomma, che dobbiamo dire? Ci siamo concentrati poco sulla legge elettorale, su quello che succederà. Sì, vedremo. Vediamo i franchi tiratori in Parlamento. Queste le devono rivotare sulla rete. Ma i franchi tiratori in Parlamento è un qualcosa. Ah no, sai perché c'è Despacito? Despacito. No, perché pare è tutto il giorno il tormentone, già che ce lo tireremo per me. Mettete almeno quello della violinista pugliese, che è meglio. Perché pare che Alessandro Di Battista, disperato in un capannello di gente del Movimento 5 Stelle, ha detto: sentite, quando vi chiedono della legge elettorale, voi rispondete intonando Despacito e andandovene. che dà il senso della cifra. Però è un accordo di cui loro sono parte integrante, quindi per favore non facessero anche loro gli svicolanti. In ogni caso, voteranno ancora sul blog, vedremo, caro Oscar, magari nei prossimi giorni, insomma, della... E comunque lasciami dire, politica. Su una cosa non sono d'accordo con Gramellini, perché quando Allegri dà dei falliti ai vigili, il problema non è che Allegri è ricco ed è borioso perché è ricco, è che è un coglione qualunque sia il suo reddito, uno che risponde così a un vigile se ha torto e lui ti fa la multa. Non è una questione che è ricco Allegri, quindi un borioso, perché se fosse non povero, è la prima volta. E allora due volte coglione. No. Dai, dopo si arrabbia, sai che è Fumino, è tre toscano. Volte coglione. No. Se ha torto, tre volte coglione. Se ha ragione, ha ragione, lui è stata levata una multa e lui aveva ragione, comunque non dai del fallito al vigile, perché gli dici no, guardi, sta sbagliando. Ma se gli dai del fallito, Gramellini, il problema non è quanti soldi ha in tasca chi gli dà del fallito, è che un coglione a prescindere. Sta parlando di granata, Oscar. No, no, no, stop, no, no, perché io ce l'ho più con Gramellini che la mette sui soldi. Ah, ecco. I soldi non c'entrano, caro Gramellini, non c'entrano. Vabbè. I soldi. Comunque sì, Allegri pare che abbia dato dei falliti ai vigili che l'hanno pizzicato col telefonino in mano. E quindi i vigili avevano ragione, no? Allora, non puoi a quel punto metterti a contestare, ma dai il fallito. È un errore, caro Gramellini, non perché è ricco, è coglione e basta, che gli risponda così. Quindi Allegri, se ha risposto così, è un coglione, punto. Dai, ci troviamo domani. Cari Juventini, ciao.